9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, e oggi martedì 14 settembre una cosa di sicuro non vi sorprenderà, cioè che come sempre il conduttore di questa trasmissione, il conduttore pro tempore di questa trasmissione è contro le tasse, perché è convinto che siano troppo alte ed è convinto oltretutto che, oltre a essere ingiusto, questo effetto distorca l'economia italiana, la renda non solo più ingiusta ma più inefficiente. Citerò nuovi dati su questo, ma questa non è una novità, è diretta a voi, vabbè, non è che ci puoi riproporre sempre la stessa broda. La novità invece, alla quale attribuisco grande importanza e abbiamo deciso per questo di dedicare l'intera trasmissione, è che il sindacato e innanzitutto la CISL e la UIL hanno deciso di dare alla richiesta formale di una diminuzione di alcune imposte, di alcune aliquote, di alcune imposte, una veste formale, di farne un'iniziativa dopo tanto parlare e dopo tanta, troppa attesa da parte di un governo che racconta sempre e prende i voti sul fatto di abbassare le tasse, poi non lo fa mai. E allora CISL e UIL questa volta hanno detto: va bene, vi prendiamo in parola, però basta aspettare. E quindi 15 settembre i due sindacati riuniscono insieme le loro segreterie e il 9 ottobre vanno in piazza, cioè mettono al centro di una grande manifestazione nazionale la richiesta formale di meno tasse. Vedremo insieme a loro nel corso della trasmissione quali in particolare e come secondo loro bisogna essere rimodulato questo prelievo. Però è un fatto che questa è la rottura di un tabù. Cioè il sindacato, dopo anni e anni in cui ha sempre chiesto di intensificare la lotta all'evasione fiscale, e qui c'è chi rappresenta il lavoro dipendente, che chiaramente ha il sostituto d'imposta e non è che, e quindi tende un po' ad accusare, secondo me un po' ingiustamente, il lavoro autonomo e dividere gli italiani in due. Il fisco e lo Stato hanno sempre tratto un grande vantaggio da questa guerra sociale dei poveri tartassati italiani, cioè il lavoro dipendente che punta il dito contro il lavoro autonomo e professionale. Ma al di là di questo, adesso si aggiungono richieste formali, si scende in piazza per questo. A me sembra una rottura di tabù molto positiva, quindi benvenuto, ma non perché scendono in piazza adesso, lo hanno sempre pensato e adesso però decidono di farne un'iniziativa concreta. Sentiamo quali sono state le parole recenti da una parte di Berlusconi e dall'altra di Giulio Tremonti sull'argomento. Cominciamo con Berlusconi, questo è un brano dell'intervento un po' discusso di Berlusconi alla conferenza di Jaroslav qualche giorno fa, quella in cui insomma si è espresso su Putin come il dono del Signore, ma sulle tasse ha detto: e dentro la nostra natura è radicato un convincimento che ci fa dire a tutti noi che lo Stato ti può chiedere fino a un terzo di quello che guadagni. Se ti chiede di più ti sembra che sia qualcosa di eccessivo, se ti chiede addirittura, come succede in molti Stati, più del 50%, ti sembra addirittura che sia un furto o anche una rapina. E quindi è molto importante, perché il cittadino senta di vivere con giustizia dentro uno Stato democratico, che anche da parte del fisco ci sia una richiesta equa che si situa presa poco intorno a un terzo di ciò che il cittadino guadagna. Ecco, questo è il Berlusconi ultimo, quello solito che sentiamo dal 94. Naturalmente, in base a queste parole, io posso, senza alcun timore, dire che lo Stato italiano è uno Stato ladro ed uno Stato corruttore, perché il Presidente del Consiglio dice che siccome non dovrebbe prendere più di un terzo e siccome prende invece ufficialmente il 43% e rotti per cento, se leviamo dal denominatore il nero calcolato dall'Istat ne prende il 52%, a me in particolare quest'anno sulle mie due società operative ne prende il 66% del rendito lordo, quindi uno Stato lordo al cubo, un Stato rapinatore, è un malversatore, è un organizzatore di corruzione. Ecco, questo dovrei dire se sento il Presidente del Consiglio. Poi mi ricordo però che lui ogni volta promette e mai mantiene dal 1994, e forse devo sentire anche il ministro Giulio Tremonti, che a Gubbio pochi giorni fa al seminario del PDL invece ha detto in maniera significativamente diversa queste testuali parole: la pressione fiscale è il rapporto tra le entrate e il PIL. Se il PIL scende, mica puoi scendere e dire a un cittadino: sai, siccome il PIL è sceso non ti do più le medicine, o non ti do più lo stipendio, o non ti do più la pensione. Gli scienziati ti dicono che la pressione fiscale è salita. La mia impressione poi è che se ci metti dentro anche le entrate straordinarie, anche da rimpatrio dei capitali, è chiaro che un po' sale, ma non abbiamo mai messo le mani nelle tasche dei cittadini. E non vogliamo continuare a farlo, anzi vogliamo evitarlo, vogliamo continuare a non mettere le mani nelle tasche dei cittadini. Comunque la riforma fiscale è una grande partita. che faremo insieme con le parti sociali. Non abbiamo la minima intenzione di farla da soli, senza sentire il consiglio, le indicazioni, le suggestioni delle parti sociali. Avete sentito Tremonti, un Tremonti molto più piano, non si permette di dare cifre, esclude che ci sia la magica diminuzione. Il ministro dell'economia in realtà da 2 anni parla di ripartizione tra questa e quella imposta diversa e parla di accentuare l'autonomia impositiva rispetto a un sistema centralizzato e dice però con le parti sociali, e allora le parti sociali lo prendono alla lettera ed è per questo che il 15 settembre riuniscono le segreterie CISL e UIL e il 9 ottobre dicono a tutti loro iscritti andiamo nelle piazze perché finalmente queste promesse diventino qualcosa di concreto. Ora io vi do qualche ultimo dato prima di presentare gli ospiti di uno studio che è fatto comparando la pressione fiscale, cioè la somma di pressione tributaria e contributiva sul lavoro in alcuni paesi OCSE, vedendo come è evoluta nel tempo tra 1960, 1980 e 2000 e qual è l'effetto che l'andamento della pressione fiscale ha avuto sul totale delle ore lavorate per settimana dai lavoratori, da coloro che lavorano sul totale della popolazione 15-64 anni. Perché? Perché c'è una relazione diretta tra la pressione fiscale, la somma di quella tributaria e contributiva, che più sale, più scoraggia il lavoro. Cioè, oltre all'ingiustizia di una pressione fiscale così elevata sul lavoro, oltre che sull'impresa, l'effetto che essa esercita, e si vede in tutti i paesi OCSE, è che più cresce questa pressione, più la gente è scoraggiata dal lavorare. Questa è una componente fondamentale della produttività, perché scoraggia il numero totale della popolazione che partecipa al mercato del lavoro e scoraggia l'intensità, la quantità con cui è indotta a offrire il proprio lavoro. Basta vedere questo, poi darò qualche altro dato paese per paese. Se noi pensiamo la media OCSE del totale della pressione tributaria e contributiva sul lavoro, nel 1960 era pari al 25,4%, sale nell'80 al 36%, sale nel 2000 al 41,9%, cioè aumenta in 40 anni di 16,5 punti in media su tutti i paesi OCSE. La media delle ore lavorate settimanalmente che vi ho detto nel 1960, che era pari a 28,1 ore settimana media OCSE, scende a 23,3 nel 1980, scende a 22,5 nel 2000, cioè a un aumento di 16 punti e mezzo in 40 anni della pressione fiscale contributiva segue una diminuzione del 18,7% del totale delle ore lavorate. Naturalmente questa è una media tra paesi in cui la pressione fiscale contributiva è cresciuta di pochissimo, eccezione tra tutti gli Stati Uniti, è cresciuta meno di tutti. Gli Stati Uniti, rispetto a 16 punti e mezzo di aumento di tasse e contributi sul lavoro, sono passati in 40 anni, dal 1960 agli anni 2000, era il 22,1% nel 60 e è salita al 28,6%, cioè è salita solo di 6 punti e mezzo rispetto ai 16 punti e mezzo alla media OCSE. Infatti gli Stati Uniti sono l'unico paese OCSE, insieme al Canada a dire la verità, in cui in 40 anni il totale delle ore lavorate, dell'offerta di lavoro, è salita, è passata da 23,7 ore lavorate a settimana a 25,3, è salita del 10%. Invece per tutti gli altri paesi, soprattutto europei, in cui l'aumento della pressione fiscale contributiva è stato magari anche di 30 punti o superiore, pensate, in Francia è stato in 40 anni di 35,3% in più l'aumento fiscale e contributivo. In Italia siamo passati dal 1960 al 2000 da una pressione fiscale contributiva sul lavoro di 25,5% a una di 49,1%, questo è tasse e contributi, quindi abbiamo avuto un aumento di 23,6 punti percentuali in 40 anni. Qual è stato l'effetto sul totale delle ore, dell'offerta di lavoro e ore lavorate? In Italia, a fronte di un aumento di 23,6 punti percentuali di pressione fiscale sul lavoro, il lavoro offerto è diminuito in 40 anni del 32,3%. Allora, questo per farvi riflettere. Chiedere meno tasse sul lavoro non è solo una sacrosanta maniera per dare più reddito disponibile ai lavoratori, che sono la componente del totale della ripartizione dei redditi italiani che ha sofferto di più in questi anni, quindi per sostenere la domanda interna e perché è giusto. Penalizzano anche la produttività complessiva, perché la gente con questa pressione fiscale, anche se se ne rende poco conto perché c'è il sussidio d'imposta, dice, quando se ne rende conto, ma a me chi me lo fa fare di lavorare solo per questo Stato, che se do retta a Berlusconi devo definire ladro, punto, fine della mia introduzione. Ora parlino gli ospiti. Abbiamo collegato con noi innanzitutto il segretario generale della UIL, Luigi Angeletti, buongiorno. Buongiorno a lei. Al quale iniziamo subito dopo aver presentato gli altri due ospiti a chiedere in concreto quale sarà la piattaforma che si denerà insieme alla CISL. Poi abbiamo il professor Raffaele Lupi, che insegna diritto tributario a giurisprudenza a Tor Vergata a Roma. Buongiorno professor Lupi. Buongiorno. E poi nella parte di almeno un giornalista ragionevole, visto che io non lo sono su questi temi, ci vuole, e quindi abbiamo un autorevole collega della stampa, Alessandro Barbera, a cui faremo fare la parte del realista contro tutti coloro che fanno false cifre e false promesse. Buongiorno Barbera. Buongiorno. Allora, Angeletti, ci fa capire in concreto questa piattaforma come si potrebbe delineare, per esempio, su quali imposte e quali aliquote? Allora, il primo problema è quello di riuscire a ridurre la pressione fiscale sul lavoro, perché esso ha un effetto distruttivo della capacità di aumentare la produttività, quindi di creare ricchezza, oltre ad essere ovviamente ingiusto dal nostro punto di vista, ma questo come dire, potrebbe essere un elemento che riguarda appunto solo i lavoratori dipendenti, che sono la maggioranza. Come? In primo luogo cercando di trovare delle forme di deducibilità che riguardino il lavoro dipendente, lavorando anche sulle aliquote e soprattutto ampliare e rendere stabile, permanente, quasi un elemento come dire, costituzionale del nostro sistema fiscale, quella modifica che il governo ha introdotto di detassare gli aumenti salariali derivanti da accordi di produttività. Noi siamo convinti che questa novità avrà delle conseguenze estremamente positive. Deve entrare ovviamente nella consapevolezza, finanche nella coscienza dei lavoratori e delle imprese, che fare accordi sulla produttività, quindi erogare aumenti salariali privati dal carico fiscale, è la soluzione migliore che abbiamo per uscire da quella trappola nella quale siamo caduti negli anni 90 di bassa produttività e bassi salari. Poi ovviamente c'è tutta una serie di richieste che costano, che servono a rendere un po' più, diciamo così, equo dal punto di vista sociale il nostro sistema fiscale. Ma la vera novità non sta nel reiterare le rivendicazioni di giustizia sociale migliorando il fisco, sta nel fatto che noi vogliamo porre con forza l'idea che la politica fiscale è la leva più potente che oggi possediamo, forse l'unica, per rilanciare o per aiutare la crescita della nostra economia. I governi hanno poche leve in mano, probabilmente in Europa probabilmente la leva fiscale è l'unica. Bisogna immaginare che essa debba essere utilizzata oggi per sostenere appunto la ripresa dell'economia, aumentando la produttività, aumentando un po' i consumi, che ovviamente senza aumento di produttività l'aumento dei consumi significherebbe solo aumentare le importazioni, quindi non darebbe grande sollievo all'insieme della nostra economia. Questo è il cuore della nostra richiesta. C'è un'altra consapevolezza, e la dico per ultimo, che riguarda il modo come vengono gestiti il denaro pubblico. Noi sono decenni che ci battiamo per ridurre l'evasione fiscale. Fino a quando il sistema politico nel suo complesso potrà fare a meno della battaglia dell'evasione fiscale, perché ha la possibilità di trovare denaro facendo pagare le tasse agli altri, la battaglia sull'evasione fiscale difficilmente verrà vinta. Solo quando la lotta all'evasione fiscale diventerà fondamentale per l'entrata dello Stato, allora avremo qualche possibilità di successo. Professor Lupi, lei è convinto fondamentalmente che una rimodulazione delle aliquote al ribasso, e questo implica, per esempio, se immaginiamo qualunque sostanziale ritocco per le aliquote nelle quali ricade la stragrande maggioranza dei contribuenti, implica ovviamente rinunciare a quote di gettito elevato e quindi chiede allo Stato, per non essere demagogo, per non mettere a rischio la solidità degli impegni europei, per non far ripartire gli spread sui mercati, chiede a quel punto impegni rigorosi di tagli di spesa. Allora io le dico, siccome la Germania negli anni alle nostre spalle, prima della crisi, ha diminuito la spesa reale e la pressione fiscale più vicina a 6 che a 5 punti di PIL, e lo ha fatto mettendosi in realtà in Costituzione questo bel doppio chiavistello che fissa i limiti del deficit pubblico, di cui al 2015 addirittura arriveranno a non poter superare un terzo di punto di PIL all'anno, quindi praticamente il pareggio del bilancio come primo chiodo nella Costituzione tedesca. Secondo chiodo nella Costituzione tedesca, messo dalla Corte Costituzionale, a dire la verità, un limite al prelievo dello Stato, dei Länder, dei comuni, delle municipalità, un limite che viene di anno in anno attualizzato, ritoccato dal Parlamento, e quella cifra non si tocca. Chiunque possa pensare di mettere nuove imposte deve sapere che il contribuente a quel punto può dire no, perché io vado sotto il mio minimo vitale, e il minimo vitale che è cresciuto di anno in anno. Queste due cose portano a più 6 che 5 punti in meno di spesa reale e di pressione fiscale in Germania. La domanda che le faccio è, professor Lupi, siccome ci si scontra da anni sul fatto che ciascuno dice sono troppe, però se bisogna poi intervenire bisogna tagliare la spesa, come si fa a tagliare la spesa? E alla fine dice Tremonti, in queste condizioni io mi accontenterò di rimodulare il sistema fiscale. Meglio, come dice Tremonti, rimodularlo senza pensare a fare come la Germania, cioè senza ridurne il peso complessivo sull'economia, perché il realismo, perché in Italia nessuno ci riesce a ridurre la spesa, oppure invece basta anche rimodularlo con un certo dinamismo, professor Lupi, perché comunque si sprigionano effetti tali che in definitiva non è poi così un obiettivo importante ridurne il peso in totale sull'economia. Lei che dice? Bisogna vedere a che cosa serve la spesa e quale utilità sociale ha quel 41% che se ne va in spesa pubblica, che non è un problema da tributaristi. Pare che in Germania diano molte più cose a fronte della quota di PIL che se ne va in spesa pubblica. Cioè, se noi ci facciamo i pezzi di autostrade che finiscono nel superstrade, che finiscono nel deserto, nei campi di Gran Turco, o ci manteniamo legioni di raccomandati o impiegati che non fanno niente, cioè la pressione fiscale dice solo la metà del cielo. Cioè, lo Stato prende il 41, che ci fa? Col 41 è anche una questione di razionalizzazione, cioè l'opinione pubblica italiana avverte gli sprechi, così come avverte. Ma perché mi dice 41, professor Rubi? Sta facendo uno sconto a Tremonti. Se dice 41 si fa uno sconto a Tremonti. No, non lo so, tanto è sempre in quel che sia 41, 42, sì, va bene, va bene. Siamo sempre in quello che importa, è l'ordine di grandezza. E l'ordine di grandezza è non è che si possa cambiare nel giro di pochi anni, gli stipendi vanno pagati. Cioè, che margini abbiamo per ridurre la spesa pubblica quando ci sono milioni di persone che alla fine del mese, cioè, si è fatto negli ultimi anni sostanzialmente bloccando, ve la ricordate la regola di Gordon Brown, non più del 2% in tutte le amministrazioni, però quello era non più del 2% di aumento della spesa, di aumento rispetto al tendenziale, cioè la Germania l'ha ridotta in termini reali. Lei giustamente mi dice, ma com'è possibile? Ma allora perché i tedeschi ci sono riusciti? Cioè, cosa hanno fatto i tedeschi? Cosa hanno di irreale i tedeschi da diminuire di quasi 6 punti la spesa pubblica in 6 anni? E questa è la mia domanda, perché sa, poi alla fine è la Germania che fa il benchmark europeo. Certo, però noi ci occupiamo di entrate, cioè non di riduzione delle spese, cioè il diritto tributario e scienza delle finanze si occupano, soprattutto diritto tributario, di dove si prendono i soldi, quindi discorsi della distribuzione, dell'equità fiscale, il fiscal drag. Per occuparci della riduzione della spesa pubblica bisogna mettere le mani sui beni culturali, sulle infrastrutture, sull'educazione, sulla sanità, e sono tutti discorsi che non si possono fare in assoluto, cioè quanto si spende per la sanità, istruzione eccetera, bisogna andare a vedere la qualità dei servizi, e questo travalica la competenza. La mia sensazione è che i nostri ospedali costino quanto le cliniche di Beverly Hills e stiamo come in una topaia, però è un feeling che deriva da ricoverato, non è il feeling di un professore di diritto tributario. Mentre invece lei dice, riequilibrando, diciamo, a prescindere dall'obiettivo di diminuirne la pressione, gli effetti che se ne sprigionerebbero a seconda dell'indirizzo che si bocca, quali possono essere? Gli effetti, c'era la prima parte della sua domanda che riguardava le aliquote, cioè esatto, se facciamo una rimodulazione delle aliquote, lì non c'è molto su quello che è emerso. Noi, agendo sulle aliquote, facciamo la redistribuzione fra poveri e poverissimi. Esatto. Aveva perfettamente ragione Angeletti quando diceva del recupero della ricchezza nascosta, poi che la metta sul piano moralistico, perché i cattivi, gli onesti, i disonesti e tutto quell'ambaradam è un altro paio di maniche, però il problema vero è recuperare quei 120 miliardi che stanno da qualche parte. Certo, no, non possiamo dire a metà dell'opinione pubblica che sono dei criminali, però con la rimodulazione delle aliquote sull'esistente, con la proletarizzazione dei ceti medi che c'è stata, mi sa che non andiamo da nessuna parte. Perfetto. Non c'è più da fare la redistribuzione su quello che si conosce. C'è da far emergere quello che non si conosce. C'è da far emergere quello che non si conosce, perché ormai anche il pubblico, cioè negli anni 60, negli anni 70, un pubblico funzionario, una famiglia di 2 persone metteva da parte uno stipendio. Direbbe a questo punto il cattivo liberista, totalmente insensibile alla gradualità, che per far emergere forse un grande abbattimento delle aliquote servirebbe. Professor Lupi, ci eravamo lasciati su questo, cioè quando le aliquote marginali sono così elevate che diciamo, l'effetto che inducono a osservarne il rispetto è molto scarso rispetto alla probabilità elevata di sottrarsi ai controlli e di farla franca per tutto ciò che non si vede nella radiografia dei redditi degli italiani, no? Allora, perché non pensare che un drastico cambio di impostazione del sistema andando verso aliquote marginali molto più basse non aiuti a far emergere la radiografia reale di ciò che sfugge? Questa è una cosa che si dice sempre, perché chi sa di non essere individuabile facilmente non ti dà neanche il 15%, cioè non perché? È che se io so, le tasse si pagano quando c'è la probabilità che qualcuno te le venga a chiedere, chi questa probabilità non la vede, ma anche se l'aliquota scende al 15%, aspetta che qualcuno gliela chieda. Cioè quello che non si capisce a livello di opinione pubblica è che il nostro sistema fiscale è esternalizzato sulle aziende, cioè il lavoro lo fanno più o meno 15-20 mila grandi aziende sui consumi, sui dipendenti, il sostituto d'imposta, esatto, come dicevamo prima, esatto. Cioè è tutto esternalizzato, dove non c'è qualcuno che ti chiede le imposte, non è che la gente paga perché si scrive sulla gazzetta ufficiale che deve pagare, con la gazzetta ufficiale 4 milioni di autonomi eccetera, giustamente ci incartano l'insalata, e tutto sommato lo farei pure io, quindi non è questione di criminalizzazione. Lei però ci va un po' pesante, io devo difenderli, perché io non lo so, io pago, ripeto, 66, cioè cosa devo pagare perché lei non mi dica che ci incarto l'insalata? Ci paga, cioè, pure io. Pure io ho la dichiarazione più alta dell'ufficio, tutti gli anni mi chiedono i contributi della cassa avvocati che si vedono pure su internet, se andassero a trovare qualche carrozziere sarebbe meglio. Vabbè, siamo al centro entrambi del, però voglio dire, per dire che non sono tutti uguali, però lei dice no, è l'efficienza del sistema di emersione, non è l'aliquota marginale. Chiedo però ad Angeletti, se per caso la cosa dovesse continuare, che poi fanno, facciamo tante chiacchiere e poi il governo e la politica continua a dire non si può, non si deve. Adesso Tremonti l'abbiamo sentito e voi dite bene, queste saranno le nostre proposte, sediamoci e fai. Ma se per caso dovesse continuare l'ambaradan delle promesse non mantenute, magari perché c'è l'instabilità della politica, perché bisogna riandare a votare eccetera, la domanda provocatoria, me ne rendo conto, mi scusi Angeletti, è: visto che bisogna per tutto il mondo del lavoro dipendente sopportare il prelievo alla fonte col sostituto d'imposta, che è la parte più efficiente del sistema, come ci ricorda il professor Lupi, ma è proprio così impensabile immaginare che un giorno il sindacato dice cara politica ci hai scocciato e a questo punto insieme alle imprese ci metti, chiediamo alle imprese di superare il sostituto d'imposta e così cara politica ti mettiamo in condizione in pochi mesi di capire che avrai milioni di lavoratori dipendenti nelle piazze che a quel punto te lo chiedono un pochino meno delicatamente di quanto con responsabilità faccia il sindacato? Perché la mia impressione, Angeletti, è che quando gli italiani fossero purtroppo costretti a fare quello che fanno gli autonomi, cioè a fare il regime di anticipo, conguaglio eccetera, una volta che hanno preso il lordo e poi devono rimettere mano al portafoglio invece che vederseli sottratti alla fonte nella busta paga, io temo che avremo le piazze piene. So che è una provocazione, Angeletti, ma è per dire a lei, se la politica non risponde che fa il sindacato? Glielo chiederemo molto meno delicatamente di come lo stiamo facendo, e voglio confermare però quello che dice lei. Se noi abbiamo commesso un atto di generosità, no? Si commettono anche errori dal punto di vista, perché si è troppo generosi o troppo ottimisti, è stato quello di credere per molto tempo che era possibile far emergere tutta quella enorme massa di ricchezza su cui non si pagano le tasse semplicemente chiedendo appunto maggiori controlli, una maggiore incisività e quant'altro. La storia, perché di questo si può ormai dire, ha purtroppo testimoniato che nessun governo, nessun sistema politico ha la forza e forse anche la volontà di diventare così impopolari se non è costretto. Quindi, detta in maniera molto semplice, molto ruvida, bisogna che chi governa sia costretto. Bravo Angeletti, per quello costretto. Che mi riguarda. Non possiamo fidarci sulla buona volontà o quant'altro, perché è normale. E come diceva prima il professore, se i lavoratori dipendenti avessero la possibilità di dichiarare loro il loro reddito e quindi le tasse da pagare, però si comporterebbero come tutti gli altri, no? E quindi ci sarebbe una drastica caduta delle entrate, catastrofica ovviamente, perché sarebbe veramente catastrofica. Ma darebbe però anche alla politica il senso di avere superato la soglia di quel prelievo che la gente considera naturale, ma non perché la gente è depositaria di chissà quale senso elevato, perché la gente misura poi concretamente che cosa ha in cambio rispetto a quello che gli viene preso. Questa è la ragione per cui storicamente ci sono i paesi ad altissimo prelievo, ma ancora maggiore del nostro, sono sempre di meno a dire la verità, è praticamente la Svezia, che in cambio però da decenni, anzi da più di un secolo, vedono una coesione, una adesione spontanea elevata al rispetto all'ordinamento, perché in cambio c'è uno Stato organizzato e gestito con criteri e standard del tutto incomparabilmente più elevati del nostro. Quindi la mia opinione, e io per questo che dico viva Angeletti, viva Bonanni, viva tutti quelli che assumeranno questa prospettiva, la politica va costretta, altrimenti il saggio tendenziale è quello non alla discesa del profitto come diceva Marx e all'aumento del prelievo fiscale, perché lo Stato tanto è la politica pro tempore, non gli bastano mai le risorse per accontentare tutti i pro tempore da accontentare. Però sentiamo il realista a questo punto, cioè sentiamo Alessandro Barbera, a cui chiedo tre questioni. Primo, se chiede, se crede a questo cambio di marcia del sindacato. Secondo, se il cambio di marcia del sindacato, dal suo punto di vista, non abbiamo parlato di aliquote, ma insomma qua se tocchiamo le aliquote dei redditi più bassi, il professor Lupi dice ma ridistribuiamo tra poveri, però intanto c'è un problema di gettito. Poi il sindacato se lo vede Barbera che dice a Tremonti taglia ancora di più. Poi terza cosa, ma lei come la pensa realisticamente? I tedeschi, e perché sono ex nazisti che riescono a diminuire la spesa reale e la pressione fiscale reale, mentre noi che siamo all'italiana, stessa faccia, stessa razza come i greci, non ci riusciamo. E questo è il punto di fondo. Insomma, ci faccia un po' di realismo, perché io altrimenti faccio troppa lirica per il taglio delle tasse. Barbera. No, allora, premesso che non voglio far la parte dell'impopolare, è chiaro che nessuno di noi può essere realisticamente favorevole all'aumento delle tasse, e quindi siamo tutti favorevoli alla loro diminuzione, però occorre fare un po' di, come dire, di ordine, perché altrimenti secondo me si finisce per fare le solite discussioni in cui ci si mette fra quelli che dicono che è giusto abbassarle e quelli che dicono no, assolutamente non bisogna toccarle. Vabbè, lei mi sta dicendo che sono allora, più oramai un barista che un giornalista, ma no, ha ragione. No, vada avanti. Mi riferisco al fatto che sono assolutamente giuste le numeri, ad esempio, che davi tu sulla diminuzione di ore lavorate. Occorre però capire alcune cose, ad esempio quanto di questa diminuzione di ore lavorate è ad esempio diminuzione della partecipazione al lavoro, e quindi ad esempio quanto l'invecchiamento della popolazione italiana abbia influito, e quindi quanto abbia pesato negativamente il fatto che in Italia non esiste di fatto una fiscalità di vantaggio per le famiglie. Questa è una cosa sulla quale, secondo me, giusto. Seconda cosa, i sindacati dicono che bisogna ritoccare le aliquote. Io ho un'elaborazione su dati del Ministero delle Finanze, una diminuzione dello scaglione IRPEF dal 27 al 23% per un reddito di 28.000 euro, potrebbe valere mediamente una sessantina di euro al mese. Allora, il problema è, bisogna ridurre le aliquote o creare una maggiore equità fiscale, e quindi diminuzione delle aliquote sulle famiglie, numerose, tassazione delle rendite finanziarie. Io credo che questi dovrebbero essere i punti sui quali i sindacati dovrebbero insistere, perché sono le cose che realisticamente il governo potrebbe fare, una di gettito realistica. Non si capisce perché sui titoli di Stato e sulle altre forme di patrimoni si paghi il 12,5% e invece chi ha dei soldi sul conto corrente bancario debba pagare il 27%. Sono 10 anni che ne parliamo. Dai tempi di Visco, anzi direi dal primo governo Berlusconi, che si dice che lo si farà e poi si dice sempre che non lo si fa, non si capisce perché il governo non si muove. Terza cosa, occorre capire che tipo di patto sociale vogliamo, perché la discussione di principio, voglio dedicare 30 secondi alla discussione di principio. Diciamo che la pressione fiscale in Italia è molto alta, però non sono d'accordo con il professor Lupi quando dice che abbiamo gli ospedali che costano come a Beverly Hills e sono delle topaie. Io non sono d'accordo su questo. Abbiamo un sistema sanitario decisamente costoso, ma che offre delle prestazioni che raramente in giro per il mondo si vedono. Io ad esempio parlavo ultimamente con degli amici italiani che vivono in Olanda per partorire bisogna pagare quasi 1000 euro, cosa che ad esempio da noi non è necessario fare. Quindi cerchiamo un attimo anche di, come dire, non entrare, per questo dicevo forse non è il caso di dividersi fra sostenitori e realisti. Io credo invece bisogna ragionare un po' più approfonditamente dentro le cose. Bisogna essere perché tutti realisti, dice lei. Bisogna parlare, vedere un pochino, non per generalizzazioni, ma concretamente qual è, poi sono i diversi fenomeni che concorrono in Italia, sia la spesa che l'entrata. Una riduzione delle tasse durante il primo governo Berlusconi ci fu, la fece Domenico Siniscalco, valeva 6 miliardi di euro circa, di diminuzione di spesa strutturale, che sono parecchi soldi, e nessuno se ne accorse, o se ne accorsero solo i redditi più ricchi. Allora, certamente qui il punto è non abbassare le aliquote per dividere, come dire, il beneficio fra poveri e poverissimi. Io credo che qui il problema sia, e su questo hanno ragione i sindacati, insistere sul tema dell'evasione, perché probabilmente dentro a quell'aliquota al 23% c'è un sacco di gente che di soldi ne guadagna molti di più e ne dichiara molti di meno. Però non si può neanche sostenere, ad esempio, che Tremonti non ci si sia messo di buzzo buono sul tema della lotta all'evasione fiscale. Altro che io e il professor Lupi, come vedete, testimoniamo di essere tartassati dagli accertamenti. Ho un po' l'impressione che, vabbè, non voglio parlare. Sì, ci si è messo di buzzo buono, d'accordo, sì, ci si è messo di buzzo buono. Allora, due rapide telefonate, abbiamo Marco dalla provincia di Milano. Che ne pensa, Marco? Dottor Giannini, buongiorno e grazie per lo spazio. Ma io rimango sorpreso dal fatto che queste discussioni ben vengano, ogni tanto prendono sopravvento, però non si va a fondo della questione, o perlomeno intendo dire. C'è un libro che ho appena finito di leggere che si intitola Euroschiavi di Marco Della Luna. Questo libro spiega in modo molto semplice come il debito pubblico italiano potrebbe benissimo essere quasi azzerato se la Banca d'Italia si riprendesse, secondo gli articoli della Costituzione, che tra l'altro lo prevedono, la propria capacità, diritto e dovere di stampare le banconote. Per cui tutti questi discorsi hanno soprattutto una loro risposta, che è una sola: strapotere bancario. Se siamo ridotti così è perché è stato fatto nel corso degli ultimi 15 anni, a piccole dosi che il popolo ha ingoiato senza neanche rendersene conto, è stato messo in atto un sistema tale per cui il debito crescerà sempre di più, è un vortice da cui non se ne uscirà, perché la Banca d'Italia paga le banconote a valore nominale a Maastricht, secondo i trattati di Maastricht, paga la BCE e quindi non ne usciamo più. E questa cosa, Marco, la interrompo, questa cosa qua, perdoni, questa roba qua del signoraggio, io è una vita che ci combatto, è possibile mai che questi, le teorie del complotto portano sempre a tutti questi dati? Marco, ma lei è davvero convinto, l'autore di questo libro non lo conosco, ma lei è davvero convinto che il debito pubblico esiste perché la Banca d'Italia che ci ha fatto gli affari sopra, come questi teorici del signoraggio continuano sempre a spiegarvi e voi gli andate dietro? No, guardi, il signoraggio è effettivamente un fenomeno connesso a la tesaurizzazione di una parte del diritto a stampare moneta rispetto al processo di distruzione della moneta come supporto fisico. Però che questa sia la spiegazione del debito pubblico nel nostro paese e mondiale, questo, perdone, è una roba che fa parte dei tempi moderni, come i protocolli di Savio. Non le voglio mancare di rispetto, ma siccome passo la mia giornata ogni tanto, almeno 100-150 volte, a dover rispondere ad ascoltatori che dicono parlate del signoraggio, ecco, il signoraggio è un fenomeno veramente che ha un impatto di queste proporzioni quando stiamo parlando di una valuta che è riferimento nelle riserve mondiali. Dollaro, certo che è il signoraggio del dollaro, altro che se ha effetti economici e patrimoniali di avvaloramento dei corsi, è una grande drive dell'economia americana. Ma quando si tratta di quella grandezza, nel caso italiano, guardi, che spieghi il debito pubblico e quindi la pressione fiscale, il signoraggio, mi scappa da ridere. Perdoni, lo dico con tutta la sincerità. Giuliano da Padova, prego Giuliano. Buongiorno dottor Giannino, io vorrei contestare le cifre delle aliquote che state dando, perché sono aliquote teoriche, sì. Poi la realtà è un po' diversa. Verissimo. Io parlo della mia esperienza, però la mia esperienza è di Equitalia, dove ho chiesto una rateazione. La mia rateazione è la numero 38.000, quindi non sono l'unico. Direi di no. Della provincia di Padova. Direi bene. Di no. La cifra che dovevo erogare comprendeva varie cose che non ho pagato, INPS, IRPEF ed IVA anche, perché 2 anni fa non sono stato pagato da alcuni clienti, quindi ho avuto delle difficoltà. Mi è stata concessa la rateazione con il 30% di sanzione, più un 10%, più diritti di riscossione all'agenzia, più interessi di mora e interessi di dilazione. Io vengo a pagare alla fine circa il 90% in più di quello che dovevo pagare. Per carità, lo pagherò nel tempo, però il 90% in più, e io sono il numero 38.000, poi dopo di me ne vengono anche degli altri. Quindi sono io un caso isolato? No, non credo, lei c'è qualcosa che non va, è il sistema della riscossione italiana che non va. A questo proposito c'è un ascoltatore, Guido Tamburini, che ci segnala il caso suo che in effetti fa riflettere. Io e mio fratello, quale re di nostro padre, abbiamo ricevuto nei giorni scorsi dalla Commissione Tributaria Centrale del Sistema di Roma la comunicazione che il 16 dicembre prossimo il collegio numero X discuterà il ricorso numero X presentato dall'ufficio imposte dirette di Roma contro la decisione pronunciata nel 1987 dalla Commissione tributaria di secondo grado. Allora, in parole povere, si tratta di un rimborso di 2 pagamenti ILOR per circa 1 milione di lire, respinto in primo grado nei primi anni 80, dopodiché il nuovo ricorso fu invece accolto nell'87 in secondo grado. Adesso c'è l'ufficio imposte dirette che si oppone alla Commissione Tributaria Centrale del Sistema di Roma e che chiede al signor Tamburini e a suo fratello di presentarsi. Il piccolo problema è che nel 1992 il padre ricorrente del primo ricorso, il signor Tamburini, è morto dal 1992. Ecco, questo è il fisco italiano. Domanda terminale per Angeletti. Questa strada che inizia con questa manifestazione e con questa consultazione per la produttività, ma anche con la richiesta al governo questa volta, non solo definendo con le imprese i nuovi contratti e una regola per la produttività, è una strada che ha anche in mente un'idea diversa di sindacato, cioè un sindacato capace di ragionare con le imprese in maniera diversa dal passato antagonista, ma anche forse di essere più tosto con la politica su questo che riguarda. È anche un sindacato diverso, glielo chiedo. Sicuramente per quanto riguarda il rapporto con le imprese la risposta non può che essere affermativa, perché abbiamo tutti quanti dovuto constatare che la possibilità di creare posti di lavoro, sviluppo, benessere è legata al buon funzionamento delle imprese. E se l'impresa va bene non è solo una questione che riguarda gli azionisti, è anche una questione che riguarda i lavoratori. Peraltro nella realtà noi partecipiamo alle vicende delle imprese solo quando vanno male, cioè quando le imprese vanno male noi ne paghiamo e ne condividiamo le sorti in peggio, con licenziamenti, cassa integrazione. Forse è arrivato il momento di comprendere tutti quanti che bisogna fare in modo che le imprese vadano bene e che quindi c'è la necessità di una collaborazione, di una cooperazione per far sì che le imprese vadano meglio, che si aumenti la loro competitività e quindi anche aumenti la produttività. Salvo il fatto ovviamente che poi i benefici devono essere ripartiti in maniera più equa di quanto lo sono sinora. Quindi c'è anche un sindacato che ha un'idea diversa. Una domanda finale flash proprio a Barbera. Lei, che noi diventiamo come i tedeschi, non ci crede proprio. Cosa bisogna cambiare? Berlusconi, Tremonti per diventare come i tedeschi? O che cosa? Le imprese, i sindacati? Su, una sola risposta secca, da realista però. Prendo una lancia a favore delle sue ragioni. Non c'è dubbio che l'unico modo per, diciamo, in un paese come il nostro, per spingere il paese a diminuire la pressione fiscale è costringerlo a farlo. Su questo non c'è alcun dubbio. Questo è un paese nel quale la spesa pubblica tende sempre a crescere ma a diminuire. Quindi la risposta è no, come i tedeschi non saremo mai. Molto probabilmente, se il governo avrà forza e avrà la determinazione a ridurre la pressione fiscale, allora forse anche diminuirà la spesa. Allora il problema è che bisogna sperare che Berlusconi, per un bel po' di voti alla fine della legislatura, le diminuisca. Io dico che ci vuole un partito che dica agli italiani: avrete meno tasse solo se cambio la Costituzione mettendo un tetto al prelievo dello Stato e un tetto al deficit pubblico. Un partito così ci vuole, questa è la mia idea, che qualcuno lo faccia per favore, per me, per il professor Lupi, che siamo giustamente tartassati. Grazie al professor Lupi, grazie a Luigi Angeletti soprattutto, e forza alla vostra iniziativa, andate nelle piazze per dire meno tasse al lavoro, io dico anche all'impresa. Grazie ad Alessandro Barbera, Carmelo Lauricella in regia, a Franco Piantenida, assistente alla diretta, Alessandro Marco Turni in redazione. Linea al giornale radio.